известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta. Di Stefano Pistolini. Now, can I ask you a question? Were you tempted to cut your hair shorter while you were up there, or do you? Is it fun and weightless? Well, that's a really good question because it is a little bit of an overhead to take care of long hair here. Caro presidente, quella che lei ci fa è un'ottima domanda e voi permetteteci una piccola deviazione. No, noi giriamo 360 gradi per il mondo, per il nostro bel pianeta Terra, e poi boom, andiamo su verso l'alto nello spazio in compagnia di President Obama, ormai pirotecnico, frizzante, al punto che appena gli mettono una cornetta tra le mani attacca subito a parlare, anche se dall'altra parte del filo ci sono degli astronauti, e lui che ammette candidamente di saperne pochissimo, a loro che gli dicono: presidente, benvenuto a bordo, grazie per avere un po' di tempo per noi. E Obama, in modo molto sportivo, chiede loro: scusate, ma cosa ci state a fare lassù? Insomma, si è appena concluso da 5 minuti la prima videotelefonata spaziale di Barack Obama. Stasera Barack Obama è impegnato in ben altro cimento, se è vero che in prime time televisivo parlerà per la seconda volta con questa portata mediatica, no, agli americani, spiegherà cosa sta facendo, soprattutto nelle questioni di politica interna legate all'economia, ma anche nelle prime interessanti mosse di politica estera. Ma poi trova il tempo anche per concedersi dei diversivi come quelli a cui molto spesso assistiamo, no? Sia che dia i pronostici per il campionato di pallacanestro, sia che, come nella fattispecie ci avete appena ascoltato, si metta a fare quattro chiacchiere con gli astronauti. Poi, se fa Berlusconi, noi siamo pronti col fucile puntato. In realtà lo fa Obama e ci sembra una trovata straordinaria. Dico, per esempio, in riferimento alle foto col cappello da capostazione, insomma, del nostro premier. Obama si è fatta la sua chiacchierata, ha detto: so che in questo momento state procedendo a una velocità di 27.000 chilometri all'ora, non è incredibile, ha aggiunto rivolto agli studenti che erano al suo fianco. Insomma, ha fatto un po' la parte dell'ingenuo con la scheda che gli è stata passata dal suo staff. Poi si è detto molto orgoglioso di quanto gli astronauti stanno facendo e ha fatto un po' da tramite tra studenti e astronauti, ha chiesto quali siano i compiti, come stanno andando le riparazioni, che peraltro non sono andate molto bene sulla stazione spaziale. Peraltro è pronto il rientro sulla terra della navicella Discovery, sabato prossimo dovrebbe tornare a essere da queste parti, mentre vi ricordo stanotte per i nottambuli Obama dovrebbe dire cose piuttosto importanti in diretta televisiva, disponibile anche sui canali satellitari dalle parti nostre. Ma invece noi torniamo sul pianeta Terra e ci riavviciniamo considerevolmente a casa nostra, perché ci fermiamo in Israele, dove stanno accadendo delle cose interessanti in questa sofferta, difficilissima, complicatissima, labirintica costruzione di un possibile governo. È nata adesso una ipotesi che sta prendendo sempre più forza, ovvero una convergenza dei laburisti all'interno dell'intesa che verrebbe guidata da Benjamin Netanyahu, una mossa molto discussa all'interno dello stesso partito laburista, che prima rischiava di restare in una smunta opposizione, adesso è per così dire dilaniato, no, dall'idea di andare a far parte di una intesa di larghe, molto larghe convergenze, dove ci sarebbe all'interno anche questo nuovo personaggio emergente che si chiama Lieberman, che ha tutt'altri punti di vista. Quali sono le possibili forme attraverso cui questo accordo potrebbe decollare? Lo chiediamo in diretta a Maria Grazia Enardu, ormai una voce abituale qui a Jefferson, una ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno. Buon pomeriggio Maria Grazia, grazie di essere tra l'altro ancora con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora, qual è secondo te lo scenario che si va disegnando? Soprattutto quali sono, come dire, i prezzi, ma al tempo stesso anche i guadagni, gli introiti politici che i laburisti possono avere da questa intesa raggiungibile, ormai forse assai possibile, con Netanyahu? Il Partito Laburista in queste ore sta facendo un caldissimo comitato centrale, sulla carta sono quasi 1500 persone, perché stamane all'alba appunto Barak e Netanyahu hanno firmato un'intesa. In questa intesa Netanyahu ha dato a Barak tutto, compreso naturalmente il posto della difesa che manterrebbe e altre commissioni e altri ministeri di un certo peso, e ha dato sulla carta l'impegno a perseguire un accordo di pace generale, eccetera, cioè quella cosa che tre settimane fa lei ha negato a Zipi Livni. E un accordo che ha già spaccato il Partito Laburista, che ha 13 seggi in queste elezioni e ben 7, cioè la maggioranza, ha detto che loro non sono d'accordo. Quindi da come finirà il comitato si capirà qualcosa, però se il comitato, anche di strettissima misura, approvasse l'accordo, l'incognita è che faranno i 7 ribelli a Barak in sede di Knesset, perché senza quei 7 non si arriva alla maggioranza. Con i laburisti Netanyahu avrebbe 66 seggi, mentre senza quei 7 si ferma a 59, quindi si rischia di andare a una spaccatura in sede Knesset e a un fallimento al voto in sede Knesset. A una ribadita ingovernabilità, quindi. Perché alla fine è stato trovato con i laburisti, ma grazie a quell'accordo che invece molto presto è tramontato con Livni e con il partito che teoricamente avrebbe dato un'altra solidità a un governo? È stato trovato un accordo con Barak, non sì, con sì, scusami, con Barak. No, volevo sottolineare questo perché anche l'ambizione personale di Barak, che non vuole tornare a fare il leader di un partitino di secondo rango, ha contato moltissimo, e Netanyahu da questo punto di vista ha saputo prenderlo molto bene. Quindi questa è veramente la fase finale di un partito che ha dato moltissimo a Israele. Quindi molti personalismi in questo accordo, vogliamo dire. Personalismi e ambizioni notevoli. La signora Livni in questi giorni si è vista meno, ma forse chi considera anche dentro Israele questa scena vede che la discrezione e la coerenza forse meritano ancora qualcosa. La presenza di Barak può essere anche un fattore che può in un certo senso calmierare questa visione che del nascente, mai nato per ora, nuovo governo israeliano si può avere dall'estero, ad esempio dagli Stati Uniti. È un fattore in questa direzione? Sì e no, perché da un punto di vista tecnico pochi come Barak sono in grado di leggere l'oroscopo politico-militare di Israele, però per entrare in questa coalizione lui sta pagando un prezzo altissimo, che non è soltanto un prezzo interno agli equilibri o squilibri del Partito Laburista, ma è anche all'ambizione di Netanyahu e soprattutto a un compagno di strada come Lieberman, che si potrebbe rivelare più moderato di quanto noi non crediamo, però è un ticket politico estremamente pesante, soprattutto verso gli americani. Gli ebrei americani che continuano a sostenere Israele continuano anche, questo può sembrare quasi in contraddizione, a pensare che Obama sia davvero filo americano, lo pensano il 70%, e sono molti di loro contrari a Lieberman, soprattutto per il suo atteggiamento in politica interna. Quando è che si avrà un esito, a tuo parere, di questa... Stasera, perché il comitato è convocato per oggi pomeriggio, quindi si dovrebbe chiudere stasera, si spera che si chiuda senza teste rotte. Va bene, grazie a Maria Grazia Nardo, è possibile magari risentirsi anche nelle prossime giornate, visto che forse, ma molti forse ancora leggono, è in addirittura d'arrivo la formazione del nuovo governo di Israele. Up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those who Goodbye Jane, soprattutto Goodbye Stranger, questa è una delle canzoni che ha scritto la storia del pop dell'ultimo trentennio, perlomeno, tra l'altro presente nella colonna sonora di un film nella quale è presente anche la canzone che sentiremo dopo. Questo è un indovinello aggiuntivo, mio caro, facciamo anche i giochi qui a Jefferson, quindi mettete in connessione questa e quella che sentirete fra 5 minuti, diteci qual è il film e poi Emiliano penserà ai premi, sicuramente ne abbiamo di straordinari. Volevo dire una cosa: si è sposato David Letterman, cade un bastione, cari miei ascoltatori scapoli. Erano 20 anni circa che era fidanzato con la ottima Regina Lasco, insomma la sua fidanzata storica, che credo che quando gliel'abbia detto ha detto che mi stai prendendo in giro. Invece anche uno degli uomini più cinici ma anche più simpatici della televisione americana pare sia capitolato, come si dice in questi casi, il 19 marzo in un posto Choteau nella contea di Teton nel Montana. Quindi mentre Obama era da Lino lui si è sposato per scacciare per il dolore di quell'apparizione dalla concorrenza. Tocca a voi. Express yourself. Come era quel film di Truffaut, parliamo di donne, parliamo di uomini, parliamo, ragazzi, ancora di preservativi. Qui l'argomento è rovente perché ieri ci è tornato sopra in modo, devo dire, intransigente Cardinale Bagnasco al contrattacco sulle dichiarazioni del Papa, quelle famose sull'aereo, no? Ricordate, il condom non è il modo buono per combattere l'AIDS, ha detto che non aveva ragione d'essere la polemica contro il Papa, non a caso, ha detto Bagnasco, sui media africani non si è riscontrato alcun interesse. Nel frattempo in America, anche nell'America della crisi, succedono questioni di condom, perché sono andati perduti 300 posti di lavoro in Alabama, stato povero, perché Washington, che manda nel mondo 10 miliardi di condom per aiutare a modo suo invece la scelta anticoncezionale, con questi condom made in USA, ha scelto adesso i condom fabbricati in Cina perché costano molto meno. E a correre tutto ciò vi abbiamo chiesto, ma tra parentesi, fra queste due notizie, insomma quella alta e quella media economica, una domanda ancora più bassa: ma vi fidate dei condom cinesi? Allora c'è Giampiero che parte dalla coda e dice: certo, mi fido dei preservativi cinesi, sono i primi al mondo nel controllo delle nascite, i cinesi. Ecco. Poi sul Papa invece pone una domanda, non dà una risposta, anche se il tono la lascia intendere: è la stampa che manipola la Chiesa o è la Chiesa che manipola l'informazione? A voi l'ardo a sentenza. Poi c'è Roberta che invece dice: quale migliore pubblicità per i condom, parlarne bene o male, perché cari o magari perché quelli made in China sono troppo cheap, ergo insicuri. Non vorrei buttarla sul faceto, ma in India le farmacie li vendono a pacchi da 12 per circa un euro. Quanti condom ci danno in Italia per questo la stessa cifra? Questo è molto giusto, una vecchia sana polemica mai abbastanza consumata in Italia, costano oro di questi tempi, no? Poi c'ho... No, fai delle facce strane, non capisco. Stavo facendo il conto di quanto costa in Italia rispetto all'India, un po' di più. Molto di più. E poi c'è Cristiano, abbiamo trovato anche chi li ha usati questi famosi, leggendari condom cinesi. Dice: io personalmente li ho provati e li ho trovati piccoli e stretti. Vabbè, nuovi comuni di vecchia data. Come si chiama? Si chiama Cristiano, dai, non dico Cristiano, il dai, cognome. Dai, Cristiano. Flavio dice: l'attuale Vaticano si è infilato in una serie di autogol, il liberismo duro e puro americano continua a farsi danni. A lei. Bene. Lucio: quando si dice peggio usare il preservativo che ammalarsi e morire di AIDS, ci si pone sullo stesso piano di Al-Qaeda. Boom. Renzo: viviamo in una società dove la gente è stufa, secondo me, questo lo dico io, ma riprendo il corso. Renzo: viviamo in una società dove esiste una libertà di opinione, se questa viene riconosciuta alla Chiesa, allora non può non essere riconosciuta a chi critica la Chiesa. Quindi abbasso Bagnasco, dice Renzo. Andrea: l'esempio dei condom cinesi è emblematico di come sia considerata l'Africa per i politici occidentali. Grandi discorsi e poi meschine e ipocrite soluzioni. Lui non ha fiducia, evidentemente. Vai. Allora Andrea: ho l'impressione che su questi argomenti e su altri, per esempio gli studi sulle cellule staminali, ormai la Chiesa senta il peso di una posizione anacronistica, mentre sulla fiducia o meno nei preservativi cinesi la prende larga Andrea, perché dice: il PC, il computer che sto usando, è made in China, credo siano in grado di produrre anche i profilattici. sulla stessa lunghezza d'onda Roberto, che dice: fu scandalo anche quando la Lenovo rivelò i PC da IBM, i PC continuarono a funzionare bene o male come prima. Il Papa invece non è protezionista, infatti sulla profilassi suggerisce che la miglior protezione è l'astinenza. Sicuramente non gli importa nulla che i condom siano fatti in Cina. Però ne escono bene questi condom cinesi, sì, dal loro, tra chi li ha provati e chi no. Mukeba dice: mi stupiscono molto questi errori di comunicazione, prima il fevriano negazionista, ora i condom, dovrebbero cambiare ufficio stampa, e questo lo dicono in parecchi. Sulla fabbrica dell'Alabama è il mercato, bellezza. Massimo: questo pontefice assomiglia molto all'allenatore dell'Inter, caro Emiliano, José Mourinho. Il parallelo mi ha scosso. Prima le spara grosse e poi devono scendere in campo a sua difesa i reparti speciali. Andrea Berti va su Rock and Roll e dice: baby please condom. Baby please don't go. Giulio: il Vaticano all'estero non se lo fila nessuno, solo noi gli diamo importanza. I condom cinesi, se volete che il vostro Willy diventi fosforescente radioattivo, usateli pure, lui non si fida. C'era uno carino di Gabriele Battaglia, nostro amico blogger, fotografo, sta facendo tra l'altro una bella mostra a Milano, che interviene spesso e dice sui preservativi cinesi, dice: sono del tutto consoni. E poi solleva una questione che può essere interessante anche per quello di cui parleremo tra poco: perché Obama si concentra solo sugli asset tossici delle banche, mercato finanziario, e non sui preservativi dell'Alabama, quindi la butta lui sul finanziario, sull'economico. Ultimissimo Luca, che invece è scettico perché dice: condom cinesi, io non mi fido troppo, i cinesi sono un miliardo. Dunque, prima di tutto, complimenti ai numerosi che hanno indovinato prontamente il nostro prodigioso indovinello a sorpresa. Almeno una citazione la meritano, poi Emiliano penserà ai ricchi premi. Comunque Roberta, Joel, Valerio, Beppe e Aldo, che ha chiamato, ha mandato un secondo messaggio per dire: sono Aldo, ma noi ti abbiamo connesso con la risposta esatta, hanno indovinato. Il film in questione era l'indimenticabile Magnolia, di cui ricorre il decimo anniversario, con tanto di libro pubblicato per l'occasione. Magari un giorno dedicheremo attenzione alla questione. Adesso attenzione va rivolta invece a una questione che è in atto proprio in questo momento. La voce innervosita, leggermente tremebonda in questo momento, è quella di Ben Bernanke della Federal Reserve. A suo fianco è seduto Tim Geithner, segretario del Tesoro. È l'udienza in diretta, è l'udienza della Commissione che sta approfondendo, no, come è stata gestita la questione AIG, e vi garantisco che stanno mettendo i nostri signori, come si dice da quelle parti, sulla graticola, nonostante sia arrivata la notizia che ora vi facciamo ascoltare. Andrew Cuomo thinks that his office could recoup up to $30 million more of that $165 million that was paid to employees. La notizia che Andrew Cuomo ha fatto sapere dal, come procuratore generale dello Stato di New York, che stanno tornando indietro i soldi di AIG. Prima ha detto 30, poi 50, adesso si è spinto fino a dire 80 milioni di dollari, quindi circa il 50% dei famosi bonus, che però nel frattempo pare che da 160 fossero già diventati 200. Rivolti ai top manager e ai venditori della AIG, starebbero tornando indietro, verrebbero restituiti. Un pugno di alti dirigenti di AIG si è dimesso, tra l'altro, ha detto la portavoce di AIG Cristina Pritto in una mail che ha mandato alla Associated Press. Probabilmente ci saranno altri in futuro, situazione perlomeno molto mobile al riguardo, ma di tutto ciò vogliamo approfondire con il nostro amico, nonché corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero, che salutiamo con affetto. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno a tutti. Piacere sentire la tua voce. Insomma, stasera parla Obama, adesso, come dicevamo, Bernanke e Geithner non stanno, secondo me, passando una mattinatona per il tiro incrociato a cui sono sottoposti. Mi dai, tanto per cominciare, prima di delle altre due valutazioni, un perché, se c'è un perché, Geithner è diventato così presto il capo espiatorio, insomma, in due mesi di amministrazione, di tutta questa, chiamiamola, storia, e sappiamo cosa c'è sotto, ma insomma è sicuramente il bersaglio preferito dei grandi editorialisti, economisti e quant'altro. Se possono sparare, sparano su di lui. Tu come la pensi, come la vedi? Ma guarda, una delle spiegazioni è che più un burocrate ed un esecutore che un politico e un leader, e in questo momento credo che il Tesoro americano avesse bisogno di un leader dotato di straordinaria forza, sia così morale che decisionale, e Geithner purtroppo alla fine non aveva né l'una né l'altra, perché in qualche modo era stato coinvolto in tutta una serie di operazioni che non sono riuscite, quando era capo della Federal Reserve di New York, proprio nei giorni cruciali in cui fallì Lehman, in cui si diedero i primi aiuti a AIG, in cui si diedero gli aiuti a Merrill Lynch. Ecco, lui era uno degli architetti di tutta quell'operazione fatta con l'amministrazione Bush, che poi non funzionò, doveva funzionare, non ha funzionato, dunque uno dei colpevoli, ma soprattutto è un... forse esagero nella definizione, nel termine, ma è un po' una pedina nelle mani di Larry Summers. Larry Summers resta il padre padrone delle vicende economiche di questa amministrazione, non voleva qualcuno di ingombrante al tesoro. Geithner era un giovane che lui stesso aveva tirato su quando era nell'amministrazione Clinton 8 anni fa, e quindi lo aveva portato ad assumere delle posizioni importanti, e aveva poi così contribuito alla sua nomina alla Federal Reserve di New York, dove ha continuato a farsi le ossa. Però resta questo velo di incertezza. Geithner spesso ha promesso senza consegnare. Ieri finalmente, con il suo piano per il riscatto di alcuni dei titoli tossici in coalizione con i privati, è riuscito a raccogliere delle adesioni, la borsa ha risposto bene, ci sono un po' più di dettagli su questo piano, ma è praticamente identico a quello che aveva fatto Paulson parecchi mesi fa, e certo, che poi Paulson non portò avanti perché fu criticato, perché non sembrava giusto farlo con la vecchia amministrazione Bush, non sembrava giusto intervenire con la mano pesante, facendo delle partnership così forti, e quindi l'amministrazione Bush si tirò indietro. C'è un articolo virulento di Paul Krugman, Paul Krugman, che critica questa azione di Geithner, dicendo che in questo modo sostanzialmente si è tornati indietro, si sono presi i fascicoli dell'amministrazione Bush di Paulson, gli si è dato un nome diverso e lì si sono ripresentati come un po' come cambiali alla scadenza. Ecco, in tutto questo l'immagine di Geithner direi continua a essere alquanto debole. Ecco, tra l'altro sento cosa tu mi chiedevi, cosa pensavo io. Io condivido questa posizione, nel senso che finora non è stato his own man, non è stato ancora quel leader di cui il tesoro ha bisogno in un momento così drammatico. Noto anche che ne parli spesso all'imperfetto, evidentemente hai una sensazione, come dire, non di tenuta stagna del personaggio, che comunque sta chiedendo invece, forse proprio per dimostrare quella maggior leadership che tu invocavi, sta chiedendo a sua volta più poteri, no? È di oggi la notizia che ha portato avanti una richiesta davanti al comitato, dove sta tuttora parlando, di maggiore autorità. Vuole poter entrare e condurre con sé ormai lo Stato in questa nuova America del 2009 che stiamo scoprendo tutti insieme in questa ventata statalista. Dice AIG, il problema AIG sarebbe evitato se si fosse potuto intervenire prima, se lo Stato avesse avuto maggiori poteri. È una strada percorribile? A cosa corrisponde una pretesa di questo genere? Mi sembra difficile perché Paulson stesso aveva chiesto poteri, il Congresso gliel'aveva dati, non è successo niente. Questo Congresso è molto sospettoso e direi che su AIG in particolare Geithner dovrebbe veramente tenere un profilo molto basso, per cui fu lui stesso che approvò nell'autunno scorso il progetto di erogare questi bonus, che sono poi diventati nell'occhio del ciclone nel momento in cui c'è stata l'idea di erogarli, perché ci si trovò davanti a questa situazione molto difficile, cioè che i traders, i dipendenti dell'AIG che avevano costruito questo enorme portafoglio di titoli tossici, di assicurazioni sul credito, che poi non potevano più coprire perché tutto era saltato, ebbene questi stessi signori erano quelli che conoscevano un po' tutti i segreti di questi conti, stiamo parlando di migliaia di miliardi di dollari, erano loro gli unici depositari della struttura interna complicatissima di questi portafogli, quindi gli unici che in qualche modo avrebbero potuto rimetterli a posto. E allora si confrontò Geithner con Bernanke e anche con Paulson allora con l'alternativa di dire: ma cosa facciamo, li teniamo e gli diamo questi premi in più oppure rischiamo di perderli? E poi questi signori magari vanno da qualche finanziere privo di scrupoli e cominciano a giocare contro questi stessi titoli, contribuendo a peggiorare la situazione. Allora conclusero che a fronte di creare un altro buco di migliaia di miliardi, era meglio spendere 160, 180, 200 milioni di dollari e tenersi buoni questi traders. Per cui a me è sembrato molto bizzarro quando poi Obama ha incaricato lunedì scorso Geithner di ripulire questa situazione, di tirare così i remi in barca e di evitare, trovare il modo per non pagare questi signori. È così un suggerimento molto difficile, perché poi c'erano dei contratti, i contratti non possono essere rinnegati, c'è una sacralità del contratto in America, quindi si rischiava davvero, lo stesso Obama poi si è reso conto di aver fatto una gaffa, ha fatto marcia indietro, ma si rischiava davvero di creare dei precedenti davvero imbarazzanti. Ecco, a quel punto è intervenuto Andrew Cuomo, che devo dire emerge davvero come l'eroe in questo momento, perché è stato Cuomo alla fine che ha fatto il lavoro di Geithner, è stato lui che è riuscito a farsi restituire questi bonus, torchiando questi signori, è riuscito ad avere i nomi e persuadendoli, non sappiamo ancora come, ma certamente il suo tono persuasivo ha avuto successo, perché queste persone hanno restituito questi 80 milioni su 160. Perché 80 su 160? Perché gli altri 80 sono stati pagati all'estero, in particolare in Inghilterra, alla sede di Londra, e Cuomo ha detto: temo che i miei poteri e quelli non tornano, giudiziari possano arrivare soltanto fino alle sponde dell'Atlantico e non oltre. Allora, complimenti a Mario Platero per questa brillante analisi della situazione. Geithner, come dicevamo, sulla graticola stasera, comunicazione stanotte per l'ora italiana, comunicazione nazionale di Barack Obama. Obama sicuramente parlerà anche di questo, anche alla luce poi dei successi borsistici di ieri. Lo stesso Berlusconi ha definito una buona iniziativa, tra l'altro il piano varato dall'amministrazione americana da Geithner, ha detto: a giudicare dalla reazione delle borse, ha detto il nostro premier, è una buona iniziativa, speriamo che la reazione continui nei prossimi giorni. Quando i conti vanno bene, le pacche sulle spalle arrivano. Tra l'altro, una notizia in più che voglio darvi riguarda Obama è Olimpiadi Chicago 2016, la città di Obama. Il comitato promotore di Chicago 2016 ha chiesto ufficialmente a Barack Obama di partecipare alla presentazione finale della loro candidatura, che avverrà in ottobre a Copenaghen. Come dire, insomma, avere come sponsor, come testimonial, anzi, il presidente degli Stati Uniti, insomma, funzionicchia. Baby, don't worry about it. Hate it, don't even think about it. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do what's good for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go, oh, here we go. Baby, don't worry about it. Lady, we'll go out to the floor. About the nights alone. So now you're here with me, stress and gratitude. Lead an attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look. Give you cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word of mouth. Don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world, till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Baby, we'll go out to the floor. Anyway, hey, don't know to the floor. Allora, arrivano tanti sms, tra l'altro ancora su IG. Simo scrive: qualcuno si è accorto che fra gli articoli di legge che hanno permesso il salvataggio IG ce n'è uno che specifica e conferma i bonus ai manager? Ti ha risposto ora Mario Platero dicendo che l'eroe della questione è quello che ha fatto il lavoro sporco, no? Andrew Cuomo, che i soldi, almeno quelli nazionali, li ha fatti tornare con altri metodi che noi non indagheremo. Quelli, il 50% che non torna è perché ha preso strade estere. Ma abbiamo ora in linea il nostro adorato Saro Capozzoli, occhi italiani sulla Cina e dalla Cina, da Shanghai, perché con lui vorremmo parlare di tante cose. Il tempo è totalmente tiranno, quindi dobbiamo sbrigarci. Ciao Saro. Adorato, mi fai arrossire. Mi sono allargato, dice, scendiamo, il nostro buon Saro Capozzoli, va okay. Bene? Ok. Senti, no, noi vorremmo chiederti, come dire, vorremmo fare un esperimentino con te da coi 10.000 chilometri che ci dividono. Per favore, sul tuo computer di casa mi lanci YouTube? No, l'ho appena fatto, non si riesce a entrare. Ecco, c'è un messaggio qua che appunto dice che il sito è inaccessibile o potrebbe essere stato temporaneamente spostato su un altro indirizzo. Praticamente non ci si può. Infatti erano due giorni che avevo notato che non riuscivo più a vedere i filmati che andavano su YouTube. Ma come prima di tutto avrei una piccolissima nota personale, voglio dire, un po' un colpetto ti prende quando succedono queste cose, immagino, si resta un po' contrariati, ma... no? Ma io ci sono abituato, nel senso abbiamo visto a intermittenza sempre il sito della CNN o altri ancora. Cioè, ogni tanto quando succedono delle cose, cioè, ci sono articoli o video, in questo caso cose dette su giornali eccetera, può succedere che scompaiono qui in Cina, poi ricompaiono, no? C'è stato un periodo per 10 anni circa, 89 fino, no, 10 anni, sono stati 8 anni circa, perché dall'89 fino praticamente poco prima del 2000, in cui il 4 di giugno, per dire, la CNN spariva, ma spariva per una settimana, perché si ripeteva sempre il rito di ricordare Tiananmen, e qui purtroppo certe cose non si vogliono rimangare, quindi è un qualcosa. Però ho notato che anche in Italia qualcuna delle tendenze un po' simili, ho sentito parlare un ministro italiano che parlava di controllare YouTube, quindi ecco, questa è una cosa che mi ha un po' colpito. No, ma infatti, ma anche un po' di documentazione su come si vivono queste esperienze poi può essere anche utile a proprio uso e consumo. Non è certamente, non è piacevole. Oh, io voglio ricordare anche, prima che finisca il tempo, anche per gli ammiratori di Saro Capozzoli, che partecipa a un evento dibattito che si terrà martedì 31 marzo 2009 ore 17:30 nella sede del gruppo 24 ore a Milano, Sala Collina, via Monterosa. Si chiama Opportunità o rischio, chi scommette ora sulla Cina, sottotitoli vari: gli scenari per le aziende italiane in Cina, storie di imprese, tante partecipazioni, Marco Palmieri, Aldo Fumagalli, Matteo Cordero Montezemolo, Francesco De Moiana e anche Saro Capozzoli, con il direttore Gianfranco Fabi e Ferruccio De Bortoli a coordinare e moderare il dibattito. Quindi sappiate, in area di Milano, che c'è questo evento. Poi vorrei, per concludere, Saro, se ci dai la tua disponibilità, noi la questione G20 la vorremmo rimandare a domani, perché ci vuole qualche tempo per affrontarla. Ci stai? Certo. Allora invece vorrei, vorrei chiudere con te con una nota su questa faccenda del Sudafrica. Alla fine pare che stia proprio saltando questa conferenza dei Nobel in Sudafrica, conferenza per la pace legata ai mondiali di calcio. Il Sudafrica non ha dato il visto al Dalai Lama, si sono arrabbiati tutti, a cominciare da Desmond Tutu. Alla fine salta la conferenza e i sudafricani, un po' imbarazzati, dicono noi che dovevamo fare? Insomma, pressioni cinesi, pressioni mercantili. Un'altra strana storia, un po' pesante. Che cosa mi vuoi dire? Come commenti? Purtroppo sono paesi un po' più deboli di paesi europei che legati mani e piedi, insomma. Sono legati mani e piedi perché ci sono veramente ingenti investimenti cinesi in quell'area. E le reazioni appunto a azioni di quel tipo appunto invitare il Dalai Lama, che non è ben visto da queste parti, potrebbe veramente creare grossi problemi economici, sanzioni addirittura. Ecco, è già successo in passato e probabilmente qualcuno ha pensato di rischiare, ovviamente rischiare appunto di tentare di non invitarlo. Ecco, questo praticamente ha creato questa reazione che secondo me è peggiore di quello che poteva accadere invitandolo, no? Ecco, che diciamo, però purtroppo è vero che quando un paese dipende molto da un altro, ma come è successo anche, io dico anche molto spesso in passato, e adesso voglio essere un po' equilibrato su questo, a paesi che hanno dovuto sottostare a certi diktat dettati dagli Stati Uniti o dalla Russia di allora, dalla Russia. Ecco, quindi ci sono veramente, la Cina sta esercitando il suo potere di potenza, si sta esercitando. Sta dispiegando il suo potere. Va bene, torniamo con Saro Capozzoli. Noi vogliamo parlare di questa ipotesi di valuta globale, un discorso enorme, ci spaventa anche, insomma, ma provare a tradurlo nel nostro linguaggio, nel linguaggio di Jefferson e anche del G20 che arriva con Saro Capozzoli, lo faremo domani. E invece chiudiamo qui la puntata di oggi. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini, a Roma Fabio Cantadori, a Milano la mail Jefferson 2 tra le24.it, due pagine Facebook, una per parlare con noi, redazione Jefferson 2, una per partecipare ai nostri dibattiti, Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, replica a mezzanotte, podcast sul sito, diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Ci risentiamo.